Il rock di B-Radio. Bellissimo, un po' alla Family secondo me, hai cantato un po' alla Family in quel modo decisamente molto grintoso, bello, interessante. Va bene, grazie, mi piace. Cosa aggiungere? Che anche in questo caso Lucio Dalla fece la foto di questo 45. Ah, molto bene, molto bene. Prossimo pezzo che ci esegui qual è? Cosa hai scelto? Beh, per rimanere nel repertorio dei nostri Capelli Verdi, ho scelto l'ultimo 45 giri fatto nel 67. E facciamo la facciata B, la facciata A comunque fece il Festival di Rieti, certo. Per la Rai. Per lei morirei è il titolo che ho dato io, mentre invece il discografico l'ha intitolata Ma saprei.